Io mi trovo qui nel piazzale antistante Roma Termi, il concentramento sembra essersi spostato di un po' da quello che era previsto in piazza Sedra, migliaia e migliaia di persone, tanti striscioni, fermiamo la guerra, quello che ho qui di fronte, tante bandiere dei Cobas e ancora striscioni dei precari, sindacalismo di base e molti centri sociali, naturalmente inutile dirlo, tante bandiere della pace, palloncini, una festa di colore, una festa di pace. La gente sta cercando di incanalarsi in qualche modo nel corteo che sembra prendere forma in questi minuti, l'aria è molto tranquilla, una pioggia appena accennata, però insomma ecco il concentramento sembra questo. Io proverei anche a fermare qualcuno. Ciao ragazzi, siamo in diretta a Midnight, voi siete qui per partecipare al corteo? Sì. Da dove venite? Appena, provincia di Roma. Siete arrivate stamattina? No, oggi pomeriggio, siamo appena arrivate. E insomma, com'è questa contestazione a Bush? Cosa? Com'è questa contestazione a Bush? Beh, bella, però ancora non è venuto il meglio. E stamattina avete partecipato a qualche presidio? No, dovevamo andare a quella vicino Trieste, però non ci siamo più andate. Cosa ti aspetti da questa manifestazione? Quello che si aspettano tutti, non lo so. La pace? Sì, anche se è possibile. Perché secondo te è possibile? Perché si vede da quello che sta succedendo, insomma, non ci sono tante spiegazioni. Come trovi la visita di Bush qui? Indifferente per me, cioè non è che mi interessa Bush, sinceramente, anzi, è per questo che sono qua. Sei qui per partecipare alla manifestazione? Veramente stavo solo di passaggio, sono andata stamattina alla manifestazione a Porta Maggiore. Ah, e com'era? Molto bella, molto allegra e insomma la prendeva nel verso giusto, a differenza di strascichi della manifestazione che veniva dall'università dove venivano rivoltati e bruciati i cassonetti. Insomma, i numeri per contestare Bush sembra ci siano? Sembrerebbe di sì. Cosa ti aspetti da questa protesta? Che cosa mi aspetto? Mi aspetto che la gente si renda conto di quanti siamo a essere contro quello che sta facendo Bush e tutti quelli che seguono Bush, compreso chi si governa. Ecco, secondo te c'è una coscienza pacifista oggi? Evidentemente se ti guardi intorno sì, c'è. Evidentemente sì. Tu aderisci a qualche gruppo? Sei andata lì da autonoma stamattina? No, da autonoma, assolutamente. Ti ringrazio molto, grazie, ciao. Come vi dicevo, una grande festa, adesso una grande festa di pace, adesso parte la musica, vedo anche bandiere dei Verdi e della Fion CGL, tante, poi i partiti della sinistra, di Fondazione Comunista, però ecco, le bandiere della pace sono quelle che spiccano nel numero.